Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Mezzogiorno, 14 minuti, 44 secondi, benvenuti a Salva Danaio. Oggi parliamo di imprese. Cosa serve per aprire un'attività? Un'idea, innanzitutto, poi le risorse economiche per portarla avanti, le competenze per realizzarla concretamente, le relazioni per farla conoscere e poi decollare. E sicuramente una situazione di mercato favorevole. Vogliamo dirlo? Anche un po' di fortuna. Questi, almeno in teoria, gli ingredienti per chi vuole creare una sua attività, anche in tempo di crisi. Ne parliamo oggi con la collaborazione degli autori di un libro di cui poi parleremo, che contiene alcune risposte ai dubbi e agli interrogativi che assalgono chi decide di mettersi in proprio. Se avete anche voi delle domande, delle curiosità, volete raccontarci la vostra esperienza, 800 24 0024, come sempre il numero verde, oppure via sms 349 238 6666. Tra poco salutiamo i nostri ospiti, ma prima, come sempre, un aggiornamento sui mercati. Sembra tornato sulle borse un clima di normalità, almeno per quanto riguarda i listini finanziari, mentre l'euro rimane molto debole rispetto al dollaro. In questo momento è quotato a 1,25,88, quindi fatica proprio ad agganciare 1,26 centesimi. Per quanto riguarda le borse, sono questa mattina contrastate, sono partite in positivo, poi hanno girato in negativo. In questo istante Francoforte guadagna lo 0,71%, Parigi è invece intorno alla parità, più 0,04%, mentre Londra è in rialzo dello 0,24%. Resta debole invece Milano, dove il FTSE Italshare cede lo 0,17%, mentre il FTSE MIB è in calo dello 0,13%. E per quanto riguarda i titoli sul mercato milanese, in attesa dei risultati trimestrali, l'unica veramente positiva è Mediolanum, che guadagna 4 punti percentuali, che prende la rincorsa a Piazza Affari appunto in attesa della trimestrale. Poi Campari più 2,86%, Unicredit sugli scudi dopo la trimestrale a più 1,86%, e Unipol più 1,65%. Negativi Fondiaria Sai, la peggiore del listino principale dopo la pubblicazione dei risultati, che nel primo trimestre del 2010 hanno visto una perdita netta di 92 milioni. Il gruppo ha inoltre annunciato la revisione delle politiche di espansione all'estero e un'imminente riorganizzazione industriale. Il titolo cede il 3,26%. Il titolo peggiore, dicevamo, seguito da UbiBanca, meno 1,66%, Buzzi Unicem, meno 1,49%, debole anche Autogrill, dopo la corsa di ieri cede lo 0,22%, Telecom meno 1,5%, Enel meno 1,43%, Pirelli meno 1,29% ed Eni meno 0,36%. Balza dell'8,57% Dea Capital. Ieri la società ha annunciato il ritorno all'utile nel primo trimestre del 2010, contro la perdita di 9,2 milioni un anno prima, appunto di un anno fa. Per quanto riguarda invece alcuni dati che riguardano i BTP a 5-15 anni, c'è stata una buona domanda per i BTP appunto 5-15 anni assegnati oggi dal Tesoro. Il titolo a 5 anni ha raccolto una domanda complessiva per 4,09 miliardi di euro, con un rendimento lordo semplice del 2,57%, replicando il minimo storico toccato il 12 giugno 2003. Bene la domanda anche sul BTP a 15 anni, ha totalizzato richieste per oltre 3,4 miliardi. Ma torniamo al nostro tema, ossia inventarsi un'impresa, come ripartire da se stessi e mettersi in proprio. Questo è proprio il titolo di un libro di cui parliamo oggi. Ci aiuteranno a capire qualcosa di più gli autori di questo libro, che sono Paolo Gila, giornalista economico finanziario alla RAI, buongiorno. Buongiorno. E Vito Frugis, psicologo di Family Business, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno. Allora, voi avete scritto a quattro mani questo libro. In realtà Frugis, mi sembra di capire, è l'autore del primo capitolo, quello più legato alle aspettative, alle questioni psicologiche che si mettono anche in campo quando si vuole aprire una nuova attività, mentre Gila si occupa di tutta la questione dall'idea in poi, diciamo, dall'idea alla realizzazione, ma anche questioni anche pratiche, burocratiche, no? Sì. Gila, sì. Giustamente non sapevate a chi davo la linea. Gila, è così, è lei l'autore di tutta la parte da che documenti bisogna presentare, dai casi anche industriali di successo o meno? Sì, diciamo che lo spirito del libro era proprio quello di affrontare in un'epoca di crisi quando, come e perché si apre una attività. Ci sono molti imprenditori che sviluppano l'idea di un'impresa perché sono fortemente convinti, hanno delle idee di base, hanno delle competenze e hanno deciso di sfruttarle. C'è poi un'ampia parte di nuovi imprenditori che entrano in questo settore per la necessità dei tempi. C'è la contrazione produttiva, c'è la fuoriuscita dal mondo del lavoro e molte persone, costrette dalla necessità, si industriano per inventarsi un'impresa. Quindi dal punto di vista economico si è deciso di affrontare questi due versanti. Coloro che per coraggio e per forza e per fortuna entrano in un settore imprenditoriale e gli altri che invece sono spinti dalla necessità. La parte più propriamente economica si addentra nelle questioni che sono legate alle procedure necessarie per poter aprire una partita IVA, per poter decidere la forma giuridica, ma si cerca anche di valorizzare quali sono le tendenze in atto sul mercato per capire, una volta che il ciclo economico riparte, quali potranno essere le tendenze di lungo periodo. E quindi siamo andati ad analizzare le imprese nel settore della green economy, siamo andati a vedere come e dove si sviluppa il franchising, quali sono le nuove attività di vendita che possono nascere in un'epoca come questa altamente globalizzata. Ovviamente c'è tutto un aspetto psicologico di preorganizzazione e anche di autovalutazione per decidere come e quando entrare in campo da un punto di vista di imprenditorialità. Ed e qui... è proprio questo l'aspetto che ha curato il coautore Vito Frugis, a cui do volentieri la parola. Esatto, e qui entra in campo, diciamo, lo psicologo che ha curato il primo capitolo. Il titolo è "Quando rischiare non è poi così rischioso". Certo. Quindi alcuni paletti anche da mettere per non rischiare troppo. Certo, ma una prima questione a mio avviso fondamentale è questa. C'è una diffusa tendenza a considerare il lavoro unicamente come così, fonte di guadagno per vivere, no? E non come fonte di benessere, di piacere, come modo per realizzare se stessi. Occorre invertire questa tendenza, perché poi per tutta la vita si è scontenti di aver scelto o di avere un lavoro che assolutamente non piace. E quindi, diciamo, il mio contributo vale anche per questo, no? Cioè un tentativo di invertire una tendenza che si sta sempre più diffondendo, è quello delle certezze. C'è un dato che è stato pubblicato sui giornali poi nei giorni scorsi, è un'indagine della Polis, l'Università di Urbino, per la cooperativa adriatica, e c'è, diciamo, uno studio che è stato fatto su quale sia. Abbiamo perso il collegamento telefonico che ripristeremo a brevissimo. Invece Gila, adesso ci sono degli ascoltatori anche in attesa, quindi non voglio farli attendere molto. Quello che mi incuriosiva però era il fatto che si parla della possibilità di aprire un'attività in proprio in un momento in cui, e proprio per questo forse ai nostri ascoltatori sembrerà singolare, in un momento in cui le attività in genere chiudono. C'è chi dice non sprechiamo questa crisi, cioè cogliamo l'occasione della crisi, magari per ripensare a noi stessi, al nostro lavoro. Frugis giustamente diceva anche alla possibilità, nel caso in cui il lavoro non vada bene, di pensare a quello che veramente si vuole fare, a realizzare i propri sogni. Mi pare di capire che sia questo lo spirito. Sì, diciamo che questa è proprio la parte più culturale e legata ai tempi. Dobbiamo comunque mettere in evidenza alcune tendenze di fondo dell'economia, facendo una piccola premessa, nel senso che la crisi che noi stiamo vivendo può essere interpretata in un duplice modo, cioè abbiamo una crisi che, un aspetto della crisi che dipende da cause di breve periodo, che sono soprattutto legate alla nascita di una bolla finanziaria, legata ai mutui subprime, alla creazione di debito, con tutte le conseguenze che ne sono derivate. Poi però c'è un aspetto della crisi che merita di essere approfondita sotto l'aspetto del lungo periodo, perché in questi anni si è chiuso un ciclo economico che era nato nel secondo dopoguerra. Dopo la guerra era nato il Patto Atlantico, quindi un'alleanza tra i paesi europei e gli Stati Uniti, si era cercato di dare vita a uno sviluppo dell'impresa automobilistica, dell'impresa delle telecomunicazioni, dell'informatica. Possiamo dire che da qualche anno questo mondo appartiene al passato, perché prima la caduta del muro di Berlino, poi lo scioglimento dell'Unione Sovietica, poi l'apertura del mercato alla Cina nel 2003 ha di fatto reso globale l'attività economica. Oggi un nuovo imprenditore non può pensare di partire senza, ad esempio, un sito internet che lo collega con il mondo. Quindi un altro modello con il quale fare modello. I conti. Sta nascendo un nuovo mondo. Però, e quindi ci sono dei settori che sono promettenti e sono in crescita. Bisogna evidentemente agganciare questo modello verso l'affermazione di un nuovo ciclo economico verso cui stiamo andando incontro. Sì, questo sicuramente. Stamattina abbiamo parlato a Soldi d'Intorni, però anche dei ritardi delle imprese nei pagamenti fra imprese e delle difficoltà delle imprese a farsi pagare dai committenti, siano altre imprese o sia la pubblica amministrazione. Poi c'è la difficoltà di accesso al credito. Invece, toccando proprio questi temi concreti? Beh, dal punto di vista concreto andiamo a vedere alcuni dati. L'e-commerce, cioè il commercio elettronico, sta crescendo annualmente a un tasso superiore al 10%, crescono le imprese che si dedicano anche ai servizi per il commercio elettronico e tutto questo trascina con sé anche una filiera logistica e di consegna. Ci sono altri settori come ad esempio la cura alla persona che stanno aumentando in termini di affari, in termini di presenze, intese proprio come operatori, e può essere ad esempio una filiera interessante di supporto al turismo. Esistono poi delle filiere produttive legate alla green economy, quindi tutto quello che può essere il riciclaggio di materiali come la plastica, le lamiere, l'alluminio. Sono aziende che stanno fortificando la loro presenza. È ovvio, parliamo ancora di numeri che non sono pari ai grandi numeri della crisi che oggi ci circonda, ma da qualche parte l'economia deve ripartire. Anche ad esempio il settore tessile, che è uno di quelli più feriti dalla crisi e dalla recessione, sta ripartendo con l'adozione di nuovi materiali di altra natura rispetto al passato. Ci sono imprenditori che stanno valorizzando fibre naturali che fino ad oggi erano state accantonate o non erano state prese in considerazione. E ci sono anche dei casi che poi cercheremo di fare, e cercheremo anche di farvi sentire un passo del libro. Bentornati a Salvadanaio. Ci chiedono di ripetere il titolo del libro, lo facciamo volentieri: Inventarsi un'impresa, come ripartire da se stessi e mettersi in proprio, che tra l'altro sarà presentato al convegno della Camera di Commercio di Milano il 17 di maggio. Nel frattempo abbiamo ripristinato il collegamento telefonico con Vito Frugis, psicologo di Family Business, uno dei due attori con Paolo Gila, ma abbiamo in collegamento telefonico all'800 24 00 24 un ascoltatore, Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'attesa, dica. Dunque, faccio una premessa che mio padre era imprenditore e io ho 40 anni. E recuperare i crediti una volta lavorato qui da noi è un problema serio. Quindi tutte le idee che si possono avere, i servizi che si possono dare, però poi il problema principale da noi è recuperare il credito. Cioè poi, avere credito da parte delle banche. Anche le banche poi fanno anziché essere al servizio, fanno la parte del leone, secondo noi. ancora di più in questo periodo di crisi, che vogliono più garanzie. Io avevo con un mio architetto messo nero su bianco un bel progetto di un centro sportivo polivalente, a dare servizi, alcuni gratuiti, alcuni ovviamente con scopo di lucro. Però man mano che andavamo avanti vedevamo che si parlava sempre di centinaia di euro, di migliaia di euro, eravamo arrivati a quasi a 30.000 metri quadrati, però le cifre sono diventate, diciamo, esorbitanti. Finché io ho fatto una riflessione, ho 40 anni, quando riuscirò ad azzerare questo debito, eventualmente se la struttura riesce ad andare bene. Sempre a Catanzaro c'era questo progetto. Che poi non è stato realizzato, quindi, se ho capito bene. Siamo l'acqua bolle, però non c'è lo stimolo perché reperire i fondi per poter fare, perché noi diciamo di nostro non abbiamo grande disponibilità. Le garanzie, grazie, che servono, praticamente le idee poi si bruciano man mano che passano. Grazie Giovanni. Un altro ascoltatore via SMS al 349-238-6666, Davide, ci racconta la sua difficoltà di mettersi in proprio, dice di averci provato 5 volte e non è andato a buon fine. Se ha voglia Davide di chiamarci all'800-24-0024 e spiegarci un po' meglio che cosa esattamente non ha funzionato, potrebbe essere interessante per la sua esperienza, ma anche per l'informazione di tutti. Paolo Gila, ha sentito? Sì, ho sentito. Diciamo che l'intervento di questi due amici, di questi due ascoltatori, solleva un problema che possiamo sintetizzare così, per l'esperienza che abbiamo avuto esplorando il mercato dei nuovi imprenditori. Oggi, soprattutto in Italia, non è difficile inventarsi un'impresa, avviare un'attività. È complicato mantenerla, è difficile mantenerla sana per una serie di problemi, per le difficoltà di accesso al credito, come è stato sottolineato, mi pare si chiamasse Giovanni, sì, o anche per le difficoltà legate al sistema dei pagamenti, che costringono molti imprenditori ad anticipare delle risorse, a non avere soldi se non dopo lunghi periodi di attesa. Quali sono gli errori da evitare, così da cercare di dare dei consigli anche, ecco, agli ascoltatori? Questo è proprio un capitolo ad hoc inserito nel libro per evidenziare agli occhi dei potenziali imprenditori che accanto alla valutazione dell'idea e delle proprie capacità bisogna studiare prima, quindi farsi un bel bagaglio teorico e di contatti, come farsi pagare. Quindi l'aspetto dei pagamenti, l'aspetto della contabilità non è una secondarietà rispetto all'idea dell'impresa, ma deve essere una vera priorità, nel senso che ottenere i fondi è possibile. Dobbiamo sapere che esistono dei fondi sociali europei, dei fondi all'innovazione, dei fondi regionali, fondi per il recupero di potenzialità economiche in territori marginali. Queste iniziative sono tuttavia legate a decreti legislativi, a manovre del governo piuttosto che a direttive comunitarie, le quali vengono cadenzate nel corso del tempo e quindi la fonte di questi soldi non è perenne, ma è legata al periodo entro cui devono essere fatti valere questi bandi. Quindi bisogna aggiornarsi, quindi, costantemente, bisogna informarsi. Bisogna tenersi in contatto con un buon giornale economico come può essere il Sole 24 Ore per avere tutti gli aggiornamenti. Bisogna tenere i contatti con gli sportelli delle camere di commercio, che sono tenute per leggi, per regolamenti, a essere proprio fornitrici di questo servizio informativo. Quindi esistono tutti i supporti, i pilastri per poter avere le informazioni giuste. Fare un'attività imprenditoriale senza parallelamente documentarsi ogni giorno e senza avere una rete di alleanze che siano in grado di fornire mezzi, indicazioni e altri strumenti, può diventare, se non c'è questa articolata gestione delle risorse e delle informazioni, può rappresentare un elemento di difficoltà e di disturbo non tanto per l'avvio di un'impresa, ma proprio per il suo mantenimento e per il suo sviluppo. Allora, sentiamo un passo proprio di questo libro nella nostra breve scheda letta dal nostro speaker. Crisi e creatività spesso si conciliano. Nel corso degli anni 30 dello scorso secolo, nel periodo della Grande Depressione, seguita al crollo di Wall Street del 29 e dopo una fase di forte ridimensionamento, se non di chiusura, di numerose attività produttive, negli Stati Uniti si registrò un'impennata di iscrizioni al registro delle nuove imprese. Per le forti analogie della crisi di allora con i tempi attuali, il fenomeno è tornato prepotentemente oggetto di studio, anche perché la necessità aguzza l'ingegno e vedere come altri prima di noi hanno affrontato e superato le difficoltà è sempre un utile insegnamento. E sarebbe davvero ingeneroso considerare coloro che si dedicarono anima e corpo alla creazione di un'impresa in quell'epoca complicata solo e semplicemente degli spiantati fortunati. Basterà ricordare che in quel periodo nacquero e si svilupparono aziende nel settore della tecnologia, dei trasporti, della salute e dell'aviazione civile, segmenti che rappresentarono allora il fronte più avanzato dell'innovazione. Qualcuno potrebbe obiettare che le aziende nacquero in seguito agli sforzi compiuti nel corso del New Deal varato dall'amministrazione Roosevelt per contrastare la crisi, e ciò è certamente vero. Tuttavia, occorre anche riconoscere il merito a tutti coloro che cavalcarono i tempi senza scoraggiarsi. Una dose di destino favorevole è necessaria sempre nella vita di ognuno, ma molto spesso servono volontà e soprattutto idee semplici e chiare. Comunque sia, è l'idea al fondamento dell'impresa. Vito Frugis, psicologo, uno dei sottocapitoli del capitolo da lei curato è la famiglia come leva del successo. Allora mi chiedevo proprio, leva del successo a volte può essere anche un freno, però nel caso in cui i familiari, la moglie, il marito, la famiglia d'origine non appoggino l'idea di mettersi in proprio, di aprire un'attività, magari abbandonando un lavoro da dipendente. Certo. Vorrei aggiungere una cosa a quanto detto da Paolo Gila. C'è un elemento, a mio avviso, determinante per il successo dell'impresa, che è l'adozione del pensiero strategico, l'abbiamo definito, cioè vale a dire dei nuovi principi di efficacia, perché la realtà non sarà mai completamente disponibile, no, all'ordine che noi pensiamo di dare, quindi occorre acquisire delle fonti di efficacia completamente diverse da quelle con cui spesso si decide di fare un'impresa, vale a dire il buon senso. Ci sono troppe imprese che vanno avanti pensando che il buon senso, il lavoro sodo basti per avere successo. Non è così. Ormai la globalizzazione, i mercati fluttuanti, la mutevolezza, l'ambiguità della realtà impone assolutamente l'acquisizione di modi di efficacia diversi. Quanto poi alla domanda che lei mi fa, sicuramente esiste un problema relativo alla rigida sovrapposizione che nel nostro paese esiste tra le imprese familiari, naturalmente, tra valori aziendali e valori familiari. Allora occorre scindere questi due aspetti, perché sono causa di confusione e per quanto all'inizio possono essere motivo di una spinta propulsiva molto forte, poi con l'evolversi dell'azienda e lo sviluppo dell'azienda rappresentano poi il freno maggiore. E nel libro tutto questo ruota intorno alla definizione del concetto di family think. Lei tra l'altro è autore anche di un altro saggio, vedevo, che riguarda i conflitti, la discontinuità nei passaggi generazionali delle aziende, sì. Tipicamente italiano questo tema. Sì, guardi, l'attenzione degli analisti, anche degli studiosi, diciamo, di aziende familiari, è concentrata sul passaggio generazionale. Vedo, l'85% delle aziende familiari non riescono a essere trasmesse in terza generazione, quindi vuol dire che è un problema. Bisogna andare più a monte. La riflessione che viene fatta in quel libro Family Think, anche nel mio contributo, è quella dell'importanza di spostare appunto l'attenzione al rapporto che esiste tra pensiero familiare, quindi al sistema di influenze di quella famiglia, vocazione imprenditoriale, e poi le scelte che vengono fatte in quell'azienda. Invece questo non avviene, e quindi il neoimprenditore dovrebbe acquisire una diversa consapevolezza di quello che succede, del sistema di influenze che vengono messe in atto quando si conduce un'azienda. Bentornati a Salvadanaio, come promesso diamo subito la linea a un ascoltatore che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti di rito per la trasmissione. Ascolti, io come imprenditore, come dicevo alla signorina, no, io lavoro nelle tessere da 20 anni, sono entrato in un'azienda già esistente, quella che poi gestita dalla futura mia moglie. E la prima cosa che mi sono trovato ad affrontare per entrare nel settore, io tra l'altro venivo dall'Abruzzo, dal meridione, e sono venuto su al nord per fare qualcosa di serio nell'impresa. La prima cosa che mi sono dovuto sobbarcare ovviamente è l'acquisizione di un'esperienza. Sono partito dalla riarchiviazione, da tutte quelle cose che per capire com'era l'impresa. La cosa successiva che subito ho dovuto affrontare è il rapporto con le banche. Ecco, io voglio soltanto dire che non sono d'accordo sul fatto che le banche abbiano questo ruolo sociale di creditizio a tutti i costi. Io, mia moglie aveva un rapporto con la banca, praticamente aveva dovuto assicurare il credito con garanzia reale, cioè a pari a 50.000, facendo un esempio specifico, 50 milioni di scoperto di cassa erano garantiti da 50 milioni di titoli versati. E io questo per tutto, dire? Questo per dire che le banche non hanno un ruolo sociale, nel senso che l'impresa deve camminare con le proprie gambe fin dall'inizio, cioè deve ottenere un finanziamento su un'idea veramente valida, e le banche hanno il dovere, poi tra l'altro verso anche i loro azionisti, di verificare a priori che questa idea sia valida. Quindi il discorso che un'impresa non può essere avviata perché non ci sono i soldi non esiste. Io vi posso spiegare brevemente come è iniziato mia moglie. Mia moglie, laurea, master, 5 lingue parlate, noi lavoriamo con lei. Brevemente, Andrea, molto brevemente che siamo in chiusura. È molto interessante perché abbiamo incrementato in questo anno di crisi del 28%. Mia moglie ha iniziato con le calze e le magliette sotto il letto e facendo le fatture mentre si mangiava. Siamo arrivati adesso che abbiamo rapporti con l'Inghilterra, l'Olanda, la Francia soprattutto, fatturiamo quello che fatturiamo e abbiamo incrementato addirittura l'anno di crisi. Una storia di successo, quindi. Benissimo, Andrea, grazie per averci raccontato la sua esperienza. Paolo Gila. Sì, senz'altro è vero che un'idea deve essere supportata certo dal credito, ma ci deve essere comunque un'idea valida. Certo, è esattamente così, nel senso che le esperienze che abbiamo raccolto vanno proprio in questa direzione e ci fanno dire che i primi 3 anni di attività di una nuova impresa sono proprio gli anni cruciali, perché sono i più avventurosi e i più difficili. E sicuramente anche l'esperienza che abbiamo appena ascoltato è convalida questa impressione che abbiamo ricavato scrivendo il libro. Diciamo che è proprio l'idea di base al centro di una attività, e giustamente l'ascoltatore, l'imprenditore ha detto, non è così facile raccogliere credito e ottenere finanziamenti. Questo è vero, da noi lo sviluppo del mercato di capitali per lo sviluppo, la crescita delle imprese non è ancora così fiorente, sviluppato come in altri paesi. Ci sono degli sforzi proprio per allargare questo tipo di ruolo che i capitali di rischio, i capitali cosiddetti di venture capital, possono giocare all'interno della nascita delle nuove imprese. E ci sono sempre più operatori di tipo finanziario che possono accompagnare lo sviluppo di impresa, che si stanno timidamente affacciando sul nostro mercato. Tuttavia è giusto, è vero, le banche molto spesso chiedono delle garanzie che sono pari se non superiori al credito erogato. E mi permetto di dire una cosa brevemente, che si trova anche nel libro: non c'è, che in alcuni casi non è così diffusa la valutazione dell'idea da parte degli operatori di credito, perché nella valutazione di un business plan, che è quel documento che gli imprenditori in genere compilano per presentare poi l'idea alle banche o agli istituti finanziari, non viene generalmente premiata la bontà dell'idea, ma vengono premiate appunto le garanzie, le fideiussioni, tutte quelle realtà che possono appunto appoggiare dal punto di vista del supporto di capitali l'idea stessa di impresa. Certo, bisognerebbe arrivare ad avere una sorta di rating, diciamo così, di pagella dell'idea, dando anche un voto, un merito, un credito alle idee buone rispetto alle altre che possono avere scarso successo, perché non è detto che fare un'impresa debba essere necessariamente di grande successo. Ci sono imprese che continuano a lavorare, che magari non hanno grande successo, ma che comunque hanno una discreta attività. Ecco, bisognerebbe introdurre dei meccanismi di valutazione sulla bontà dell'idea e sul ritorno di questi investimenti, che gli operatori del credito fanno puramente da un punto di vista contabile. Sì, di garanzie, essere, quindi, come esatto. Spiegavi. Ci sono anche dei casi proprio imprenditoriali, alcuni curiosi, altri di successo vero e proprio, che vengono riportati nel libro. Uno di questi che mi incuriosiva molto è quello di una società di un signore sassarese che ha cercato di mettere a punto dei pesticidi naturali e di costruirci attorno un business. Un'idea mi sembra molto interessante. Ecco, in questo caso le difficoltà sono di tipo burocratico, perché anche queste sono difficoltà reali. Ecco, diciamo questo, che la premessa di questi casi è, si risponde a una domanda: c'è ancora spazio per creare nuove attività? Vedendo sul campo la risposta è sì, ci sono dei neoimprenditori, ci sono dei potenziali imprenditori che si collocano all'interno di competenze particolari. Una di queste competenze è proprio il caso di Luca Ruiu, che è un giovane imprenditore di 34 anni che ha pensato di mettere a punto dei pesticidi naturali e di costruirci anche un business. Ha compilato il suo business plan, ha nominato questa realtà Bio Ecopest. Ecco, non vengono utilizzate sostanze chimiche, lui prepara dei pesticidi green, quindi siamo nell'ambito della green economy, siamo nell'ambito dei derivati naturali che sono nemici degli insetti e si utilizzano batteri, virus, funghi che non sono dannosi né per l'uomo né per le piante. Allora, in questo caso lui ha un'idea dal punto di vista imprenditoriale geniale, molto intelligente ed è anche un tipo caparbio. È ovvio, siamo nell'ambito di competenze che si stanno affermando, cioè è in questo caso un imprenditore pioniere, perché non esistono altre aziende analoghe in Italia e partire per lui può non essere facile. È un esempio tuttavia di un giovane 34enne che un'idea ce l'ha, che cerca di affacciarsi al mercato, cerca di ricamare alleanze, cerca di avere sostenitori, anche dei potenziali soci. Lui è un laureato ovviamente e molti nuovi imprenditori vengono proprio da lauree specialistiche dove si studiano comportamenti, prodotti, scenari, particolari tecnologie, ed è verso questo tipo di nuove imprese che possiamo guardare con una certa fiducia. Benissimo, grazie per essere stati con noi, ai nostri ospiti Paolo Gila, giornalista economico finanziario alla RAI, Vito Frugis, psicologo di Family Business, che hanno scritto questo libro, Inventarsi un'impresa. Bisogna dire che registriamo almeno negli sms, nelle telefonate che abbiamo ricevuto quest'oggi, in un certo senso uno scoraggiamento da chi voleva o vuole aprire una propria attività, dato proprio dalla difficoltà di avere credito, di veder finanziati anche i propri progetti. Quindi questo è senz'altro una difficoltà reale. Ed è tutto per oggi, per questa puntata. Fabio Cantadori in regia, Gaia Romani in redazione per Salva Danaio, Alessandro Longoni in redazione per Soldi e Dintorni. A domani mattina, ciao. Salva Danaio.